Incontri di Gianfranco Fabi. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buona domenica a Francesco Caio. Buongiorno a lei. Volare, volare di Modugno, una canzone di forse 50 anni fa. Come mai le piace così tanto? Ma diciamo è nel contesto anche dell'imminente lancio di Vega, del mestiere che faccio adesso. Mi sembra ci possono essere delle analogie, no? Quindi un augurio, speriamo, per il nuovo vettore e anche un rifarsi al momento in cui in Italia forse si pensava più al futuro che al passato. Speriamo di ricominciare. Quindi Francesco Caio, attualmente responsabile di Avio, amministratore delegato di Avio. Che cos'è Avio? Ma Avio è un'azienda che negli anni, da 100 anni, ha sviluppato delle competenze, delle tecnologie che oggi si manifestano, diciamo, in moduli per motori aerei. È un marchio conosciuto agli addetti ai lavori, ma non al grande pubblico. Può essere utile ricordare che, diciamo, di 10 aerei che oggi vengono prodotti, 8 o 9 hanno tecnologia Avio a bordo dei loro motori. Ecco, tecnologia, ma anche produzione. Voi siete un gruppo italiano? Sì, un gruppo italiano. Che ha stabilimenti? Noi abbiamo i principali stabilimenti a Rivalta di Torino, a Pomigliano, a Brindisi e a Colleferro, dove è il sito dedicato alle tecnologie dello spazio in Italia. Abbiamo un impianto importante in Polonia e stiamo costruendone uno in Cina che pensiamo di aprire per la fine di quest'anno. Ecco, quindi torniamo un attimo dove siamo partiti, il lancio di un missile che avverrà nei prossimi giorni, dove e come? È un lancio del vettore Vega dalla base di Arianespace nella Guyana francese, partirà nei prossimi giorni e rappresenta, diciamo, il compimento di una prima fase di sviluppo importante, perché per la prima volta è un vettore italiano disegnato, progettato e fabbricato in Italia che è sulla rampa di lancio della base della Guyana. Ecco, mi scusi la brutalità della domanda, chi paga? Ma dunque ha pagato una combinazione di attori, innanzitutto il quadro di riferimento generale è quello dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia Spaziale Italiana, che negli anni peraltro ha difeso e sviluppato importanti tecnologie per l'Italia e per l'Europa, e anche una componente di industrie private, fra cui la Avio, insieme ad altri circa 40 partner che hanno in questi ultimi anni sviluppato la tecnologia. Però oggi, diciamo, fondamentalmente sono fondi europei dedicati alla ricerca. Ecco, dedicati alla ricerca, quindi anche con una forte sinergia tra ricerca, appunto, aerospaziale e ricerca negli altri campi dove Avio è presente. Quindi possiamo dire che sotto questo fronte l'Italia non ha nulla da invidiare agli altri paesi quanto a ricerca tecnologica e applicazione di questa ricerca? Ma direi proprio di no, anzi il Vega è portatore di tecnologie che per la prima volta vengono utilizzate nello spazio. Penso ad esempio alla fibra di carbonio, che è l'ingrediente principale della struttura portante del vettore, o all'utilizzo di software particolarmente avanzati. È una punta di eccellenza. Siamo ovviamente all'inizio di un percorso, perché siamo all'inizio di una serie di voli di test e di qualifica, ma sicuramente un punto importante anche di arrivo della ricerca italiana. Ecco, lei quando si è laureato nel 1980 al Politecnico di Milano, sì, mi pare, pensava poi di doversi dedicare allo spazio? No, guardi, lo spazio è sicuramente nella immaginario di ogni ragazzo, e lo è stato anche nel mio, ma poi alla fine ci si accorge che, indipendentemente dai mestieri e dai prodotti nei quali uno viene coinvolto, che siano reti di telecomunicazioni, lavatrici o spazio, poi ci sono delle valenze comuni che sono quelle della passione, della competenza, dell'orientamento al cliente, in cui devo dire che, avendo girato anche un po' il mondo, l'Italia anche in altri settori ha tanto da insegnare e poco da invidiare. Ecco, lei ha avuto anche esperienza all'inizio, appunto, in campo organizzativo, in McKinsey, e poi in campo industriale, ed è stato un protagonista in fondo di un altro lancio, un po' diverso dal lancio di cui avevo parlato prima, il lancio della telefonia mobile in Italia. Ecco, quindi un ingegnere di gestione o di organizzazione, di strategia, cosa ha prevalso poi in questa sua esperienza? La strategia, l'organizzazione, la ricerca, la volontà di innovare? fare. Ma guardi, io sono molto grato al Politecnico di Milano, lei faceva riferimento prima a questa scuola, perché se mi hanno insegnato qualcosa e mi hanno insegnato a imparare e quindi a essere permanentemente in una posizione di ascolto, di curiosità anche intellettuale per capire come funziona, che poi questo cosa che funziona sia un'organizzazione, una rete, una tecnologia, non dico che poco importa, ma insomma è un secondo ordine. L'importante è, secondo me, essere interessati agli altri, a capire come lavorano e perché lavorano, e aiutarli in qualche modo a accelerare il cambiamento, che è poi il fattore comune a tutti i settori. Ecco, magari con la fortuna di trovarsi al momento giusto al posto giusto. Quello sempre. Ecco, quando è nata, come le è capitato di partecipare a questa nascita appunto del secondo gestore di telefonia cellulare in Italia? Ma lei faceva riferimento all'esperienza che avevo in Inghilterra in McKinsey, mi trovai a sviluppare con dei clienti McKinsey i business plan di quello che a quei tempi sembrava veramente un qualcosa di rivoluzionario e insolito, e quando tornai in Italia mi resi conto, insieme ai colleghi dell'Olivetti, che le iniziative che avevano, diciamo, in cantiere avevano forse un potenziale molto maggiore del previsto, e lì nacque una visione di Omnitel che poi ha portato a quello che ha portato. Qual è stato il fattore di successo del caso Omnitel? Ma direi l'orientamento al cliente in un settore che era fortemente orientato sul versante dell'offerta. Aver portato culture di marketing, culture diverse, anche partner internazionale, e tanti giovani a guardare con occhi nuovi un settore tradizionalmente orientato all'offerta, alle tecnologie. Non che non siano importanti, ma ecco, è stata quella svolta, quel portare il marketing nelle telecomunicazioni. Ecco, si pensava all'inizio degli anni 90 che avrebbe avuto uno sviluppo così forte la telefonia mobile? Ma non sicuramente nei termini in cui lo abbiamo poi visto, ma io ricordo proprio ai tempi di Londra, in cui parlando con dei colleghi la domanda che emergeva è: ma perché alla fine, se questi attrezzi, questi telefoni funzionano, non dovremmo averne ognuno uno in tasca o più di uno? È stato forse sempre quella repensée che mi ha aiutato a ipotizzare, a costruire un'azienda orientata a un consumo di massa e non di nicchia. Ecco, peraltro con l'Italia che rispetto ad altri paesi ha avuto addirittura una crescita maggiore, il telefonino è diventato non solo uno status symbol, non solo una moda, non solo un'utilità, gli ha dato tante cose insieme, e ormai chi non ne ha due è quasi un plebeo. Beh, ma lì si è intrecciato una tecnologia con un modo di fare impresa e una predisposizione sociale e economica dove si è trovato un matrimonio perfetto. La capacità di intraprendere, la piccola impresa ha trovato nella tecnologia cellulare, nella tecnologia del telefono mobile, un straordinario alleato per lo sviluppo dei loro business. Ecco, lei ha accennato prima la sua prima esperienza a Londra in McKinsey, poi è tornato in Inghilterra come amministratore delegato di Cable & Wireless, si è fatto un po' il pendolare di lungo periodo tra l'Italia e la Gran Bretagna. Come mai Londra? Ma Londra è una delle città che oggi diventano parte di un'equazione che va al di là dei paesi. Esiste una rete di centri di attività finanziarie, commerciali, industriali, e sicuramente Londra continua a esercitare una forte, diciamo, attrazione gravitazionale di tanti interessi. Ecco, qual è la differenza maggiore tra un'azienda inglese, una grande azienda inglese, e un'azienda italiana? Ma adesso io, con tanto affetto per i colleghi inglesi, io penso che gli italiani siano più dediti al lavoro e allo sforzo e all'impegno. Gli inglesi hanno un'enorme forza nelle loro regole e nei loro processi, ma quando arriva il momento della qualità, della creatività, del portare l'obiettivo fino in fondo, penso che gli italiani siano più orientati a questo tipo di attività. E questo vale anche per l'impegno dei governi. Lei è stato consulente, mi pare, sia del governo inglese sia del governo italiano su temi appunto di sviluppo di innovazione, banda larga, nuove reti, nuove tecnologie. In questo senso, quali sono le differenze tra questi due paesi? Ma guardi, con una battuta si può dire che gli inglesi ponevano una domanda ed erano realmente interessati a capire quale fosse la risposta. A volte la sensazione in Italia è che volevano una risposta e poi avremmo pensato alla domanda. Cioè, in Italia si dice che quando non si vuole risolvere un problema si istituisce una commissione. Esatto, o si apre un tavolo. O si apre adesso, un tavolo, sì. Questo. O cabine di regia, insomma. Ecco, ma l'Italia a che punto si trova come innovazione, banda larga? Adesso il governo nei giorni scorsi ha lanciato delle semplificazioni che hanno proprio in internet la loro leva su cui muoversi, una grande informatizzazione della pubblica amministrazione. Siamo così indietro? No, non siamo così indietro. Sicuramente siamo indietro sia in termini di utilizzo che in termini di predisposizione culturale. Non vorrei fare discorsi troppo filosofici. ma non penso che, almeno fino ad ora, nella parte dell'amministrazione italiana sia stato veramente assorbito il concetto di importanza di queste tecnologie, non fini a se stesse, ma quanto come catalizzatore di sviluppo. Incontri di Gianfranco Fabi. Volare, oh, cantare, oh. Buongiorno ancora, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano ancora con Volare di Domenico Modugno. Riprendiamo il nostro incontro con Francesco Caio, amministratore delegato di Avio. Volare ci ricorda un po' gli anni del miracolo economico, gli anni in cui l'Italia si riprendeva, sognava appunto di volare e molto spesso ci riusciva su molti fronti. Francesco Caio, riusciremo a riprendere questa voglia di volare, di innovare? Molto si dice dovremmo ritornare alla passione degli anni della ricostruzione in questa fase di crisi. Ma io me lo auguro fortemente, diciamo ci sono tutti gli ingredienti per potercela fare. L'Italia, al di là di quanto si legge quotidianamente, ha enormi tecnologie, competenze, scuole e università che funzionano. Noi come Avio abbiamo grandi rapporti con centri come il Politecnico di Milano e Torino, quello di Bari, insomma ci sono veramente tante competenze e tante intelligenze. La sfida è probabilmente riuscire a trattenerle e a farne arrivare di nuove, attraverso un sistema di selezione della leadership che dia veramente una chance reale a chi oggi si affaccia al mondo del lavoro. Ecco, il fatto che molti giovani dopo la laurea vadano all'estero dimostra in fondo che l'università italiana prepara bene, quindi che all'estero ci apprezzano. Non c'è alcun dubbio, io l'ho visto in tantissimi, diciamo, segmenti della mia carriera. Lei è andato all'estero. Anche io sono andato all'estero, ma e oggi penso che, le dico onestamente, penso che se 25-30 anni fa ci voleva un certo coraggio ad andare all'estero, io penso che oggi ci voglia un certo coraggio a stare in Italia. Ma la sfida di stare in Italia e creare delle opportunità in Italia, per certi versi anche quello che un po' mi ha fatto tornare, con un po' di coraggio, un po' di visione, l'invito è ai giovani di provarci, perché lo spazio lo si deve conquistare, ma anche l'invito a chi oggi è magari meno giovane di ipotizzare un percorso progettuale dove lo spazio viene lasciato ai giovani. Bisogna essere giovani nello spirito soprattutto. Esatto. Ecco, lei cosa dice a un giovane neolaureato che entra in azienda magari per uno stage, magari per fare un percorso di prova? Quale consiglio dà? Ma di fare cose dove c'è un interesse reale, dove si è spinti da una vera passione, da una curiosità a capire le dinamiche del mercato, le dinamiche delle organizzazioni, delle tecnologie. L'interesse e la curiosità sono oggi, la passione, mi lasci dire, sono oggi elementi differenzianti nella competitività internazionale. Ecco, in questo senso allora l'Italia ha delle carte in regola per riuscire a superare queste difficoltà, difficoltà che sono appunto di un sistema di piccole e medie imprese, poco innovativo in settori tradizionali. Riusciremo a fare dei passi in avanti su questo fronte? Io me lo auguro, anche perché ci sono tantissime imprese che nella prima e seconda generazione di imprenditori oggi si affacciano ad esempio alle sfide di un passaggio manageriale. Io ho avuto la fortuna di gestirlo con Vittorio Merloni in Indesit e abbiamo insieme definito un percorso che poi ha portato l'azienda a tassi, a ritmi di crescita ancora più elevati. Avendo vissuto tanti anni in Inghilterra si usa un detto inglese, it takes two to tango, bisogna essere in due per ballare. Ecco, è effettivamente un'alleanza nuova fra chi c'è e chi deve entrare, che può forse scatenare quel meccanismo che ci ricordava prima Volare, insomma. Ed è possibile pensare a un ritorno di interesse degli investitori internazionali sull'Italia? Uno dei problemi italiani è quello che ci sono pochi investimenti diretti esteri sull'Italia. Ma io spero proprio di sì, d'altra parte anche le recenti iniziative del nuovo governo sembrano puntare in modo deciso sulla creazione di quelle condizioni al contorno, velocità di giustizia, sistema fiscale trasparente e chiaro, rispetto delle regole, che sono poi, diciamo, i fattori chiave perché nei consigli di amministrazione si decida di investire in Italia. Lei è a favore dell'abolizione del valore legale del titolo di studio per mettere in concorrenza le università? Ma guardi, io non mi sono sono mai accorto del valore legale del titolo di studio. Obiettivamente sono dibattiti che si capiscono, ma fino a un certo punto. Sì, forse bisognerebbe andare più alla sostanza delle cose, delle semplificazioni più reali, magari invece di mettere 1000 notai in più, togliere un po' di competenza ai notai, semplificare davvero su questo fronte. Sì, il dubbio che ci sia un meccanismo perverso per cui si complicano le leggi e si giustificano le professioni a volte viene guardando come vanno le cose. Ma alla fine, io dico per fortuna, il metro di misura su cui la competitività degli individui e delle imprese verrà misurata è quello della rispondenza a reali esigenze di mercato. Torniamo un po' all'inizio della nostra discussione e un po' al suo core business attuale, questa azienda appunto italiana, anche se partecipata con capitale estero, quindi diciamo è una dimostrazione anche di fiducia dall'estero sulla realtà italiana. Quali obiettivi si pone adesso? Questo lancio dei prossimi giorni sarà importante. Quali saranno i prossimi passi? Ma diciamo, innanzitutto l'obiettivo per il lancio è quello di provare dal vero, nell'ambito di una vera missione, i sistemi e le tecnologie messe a punto in questi anni. Più in generale, Avio si trova oggi in un percorso di crescita fondamentalmente trainato da una crescita del trasporto aereo. Noi abbiamo chiuso un 2011 con una crescita di più del 14% sul 2010, quindi diciamo un'isola felice in un mercato Certo. Sicuramente non facile. E il nostro obiettivo è quello di continuare a investire. Ne abbiamo investito 170 milioni su un fatturato di 2 miliardi l'anno scorso in nuove tecnologie per conquistare una quota crescente dei moduli che finiscono sui motori degli aerei. L'obiettivo, diciamo un traguardo per quest'anno, è far partire la produzione dei moduli per un motore che si chiama GenX, che è il motore che finirà sul Boeing 787, il Dreamliner, che è una vera innovazione tecnologica per concezione, materiali e comfort dei passeggeri. Ecco, noi lì ci siamo come Avio e vogliamo aggiungere piattaforme di questa natura al nostro business. Chi sono i vostri maggiori concorrenti, non tanto in termini di azienda, ma in termini appunto di aree geografiche, i cinesi più che gli americani? Ma oggi abbiamo concorrenti ferratissimi in Giappone, in Germania, in Francia e negli Stati Uniti, in Spagna. Diciamo che però noi ce la stiamo battendo ad armi pari con questi nostri colleghi, conquistando quote crescenti in piattaforme tecnologiche dei grandi motoristi, siano essi General Electric, Pratt & Whitney o Rolls-Royce. Ecco, sul fronte invece spaziale, la domanda adesso in queste situazioni di ristrettezze di bilancio da parte degli stati, la domanda è essenzialmente pubblica, quindi c'è una prospettiva comunque di sostegno alla ricerca sul fronte spaziale? Io me lo auguro, anche se con l'avvento di un vettore come Vega, in prospettiva si abbassa la soglia di ingresso in termini di investimenti. Oggi Vega, quando partirà nella sua prima missione, porterà a bordo 8 satelliti, di cui 7 molto piccoli, a dimostrazione che l'elettronica e il digitale hanno consentito di ridurre spazio, volumi e costi anche dei satelliti. Cosa significa questo per il tessuto industriale in Europa e anche in Italia? È che imprese, magari di taglia medio-piccola, possono finalmente in prospettiva avere accesso a sperimentare sulle loro tecnologie e componenti e prodotti nello spazio, laddove questo non era assolutamente pensabile qualche anno fa. Ci può essere anche una forte domanda privata su questo fronte. Noi ce lo auguriamo insieme ai colleghi dell'ESA e dell'ASI, e che cioè ci sia un ancoraggio crescente di questi investimenti a delle esigenze reali di competitività del tessuto industriale. Ecco, ma in un certo senso il Francesco Caglio di oggi non può fare concorrenza al Francesco Caglio di ieri, cioè le trasmissioni spaziali non possono sostituire la banda larga, le reti ottiche, queste altre modalità di trasmissione delle comunicazioni? Sicuramente io penso che si vada verso un mondo iperconnesso in cui il numero di oggetti, di sistemi, anche pensi solo alle applicazioni di tipo salute, sanità, applicate a queste cose, chiederà una varietà di sistemi di collegamento. Satelliti giocheranno una loro componente, il Wi-Fi giocherà una sua componente, il GSM o il G4 come si chiama giocherà, quindi diciamo più che una concorrenza, forse una complementarietà. Una coabitazione. Ecco, ma si potrà appunto pensare di ampliare anche il sistema di comunicazione. Parlavamo all'inizio, ormai ognuno ha due cellulari, ma poi comunque ognuno ha 24 ore di tempo durante il giorno. Non siamo già una società di ipercomunicazione? Ma leggevo l'altro giorno un'iniziativa di alcuni comuni americani, San Francisco per chiamarne uno, dove iniziano ad offrire la possibilità, inserendo dei piccoli trasmettitori sotto il parcheggio in asfalto, di avere la possibilità di capire quali sono i parcheggi liberi. Io penso che non siamo neanche all'alba delle telecomunicazioni pervasive come verranno vissute dai nostri figli. Quindi ci sarà spazio per tutti, per nuove iniziative, per nuove possibilità in un mercato che potrà essere più ampio, forse un mercato che dovrà essere ancora un po' deregolato in questa prospettiva, il mercato delle comunicazioni. Sicuramente sì, con dinamiche nuove e anche la necessità di avere chi fa il mestiere dell'authority pienamente consapevole delle potenzialità. E vede che torniamo al punto di prima: guardare a un mercato, per esempio quello delle telecomunicazioni, nell'ipotesi forte che il futuro sia migliore del passato. Fin tanto che non c'è questo cambio di marcia, difficile pensare alla crescita. Ma un futuro lo avremo sempre, dipenderà anche da come noi vivremo, impostare e vivremo questo, e metteremo a frutto appunto il passato per costruire il futuro. In questa prospettiva, se lei potesse dare un'indicazione a chi ci governa di priorità, di cosa da fare che possa dare il massimo risultato con la minima spesa, con la riforma meno devastante, possiamo dire. È difficile, non faccio quel mestiere, forse con una battuta, io mi assicurerei che si continui a insegnare come si fa il riassunto nelle scuole medie, la capacità cioè di investire nel sistema educativo sui fondamentali e non farsi prendere troppo dalle mode, siano essi digitali o spaziali. La formazione delle persone in un mondo sempre più globale passa attraverso la connessione fondamentale della grammatica, della matematica, dell'educazione civica. Io partirei da lì. In fondo il nostro futuro è quello che sapremo dare ai nostri giovani. È proprio così. Grazie mille. Grazie a Francesco Caio di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.